vista, diciamo, giuridico, senza che abbiamo poi problema giuridico, oppure urbanistico edilizio, senza che abbiamo poi difficoltà dopo che l'abbiamo comprato. Impareremo a gestire un conto economico vero e proprio, un conto economico come riepilogo dei costi, per cercare di decidere poi se procedere o meno a fare un'offerta. Vedremo i tipi di asta e quindi vedremo le aste classiche e telematiche che ancora convivono nel nostro ordinamento ce le porteremo insieme ancora per qualche anno, poi man mano verranno le aste tradizionali superate completamente e sostituite dalle aste telematiche. Vedremo tutti i vari tipi di asta telematica. Scriveremo insieme un'offerta sia classica sia telematica, in modo che tu abbia un tutorial da seguire quando inizierai l'attività della tua prima offerta, e soprattutto, cosa interessante, avrai anche un modello di offerta di asta classica che potrai adattare alle tue esigenze secondo le avvertenze che ti dirò nel video corrispondente, eccetera. Vedremo come funziona l'asta, ecco come funziona dal momento in cui vengono aperte le buste fino al momento dell'aggiudicazione. E ovviamente ti spiegherò tutto in quella, nell'ultima ottava parte, tutto ciò che succede dopo l'aggiudicazione. E ovviamente un accompagnamento appunto mano a mano dal momento in cui entri in contatto con questo mondo. Diciamo, le prime due parti sono dedicate sostanzialmente al vocabolario, dalla terza parte in poi impari davvero come comprare un immobile all'asta, dall'acquisto alla come sceglierlo, come trovarlo, come sceglierlo, come valutarlo, quali sono i costi che devi valutare, quindi chiederemo anche i costi di natura fiscale, vedremo come si fa un'asta, l'offerta e poi la gara vera e propria. Come studiare il corso? Il metodo di studio, non so se ricordi a scuola questo discorso del metodo di studio, io lo ricordo con costanza e posso dirti che chiaramente ognuno ha maturato, però non so tu che età abbia, ma ognuno normalmente ha maturato già un proprio metodo di studio. Io ti propongo il metodo di studio che secondo me è più efficace, poi tu valuta se per te è o non è la cosa più importante, o se può essere magari uno spunto interessante. Ti posso dire che ti posso dare questo consiglio di iniziare con una prima visione del corso integrale, generale, cioè guardatelo una prima volta, non tornare indietro, lascialo entrare piano piano nella tua mente, soprattutto il vocabolario, lascialo entrare e non devi fare niente, devi semplicemente ascoltare con attenzione di volta in volta le argomentazioni, le lezioni. Ciò che è importante che voglio dirti è questo: ti verrà subito la voglia di andare a vedere, non so, come si fa un'offerta, oppure come fare il calcolo del conto economico, oppure come si fa la due diligence o come funziona la gara d'asta, eccetera. Se vuoi sfogare questa curiosità, fallo pure, però ritorna a quello che ti ho detto. Dopo che l'hai fatto, rimetti da capo e riguardatelo tutto, dall'introduzione fino alla fine. Perché? Perché questo ti servirà appunto come ingresso nel corso e renderà più sensata e molto più fruttifera la seconda visione, che è più accurata, che potrai utilizzare. In questa fase potrai incominciare a prendere appunti. Ti sconsiglio nella prima fase di chiudere la tua mente in predisposizione di ciò che è importante e ciò che non è importante. Nella seconda avrai una visione più completa di tutto, quindi avrai molta più capacità. Nella terza visione fallo col taglio pratico, cioè incomincia a cercare gli annunci, ritorna nella lezione che ti interessa, approfondisci e incomincia ad entrare nel concreto della situazione. Questo non è un metodo ovviamente mio, sono dei metodi di formatori che nei secoli hanno imparato e imparato loro stessi e insegnato a terzi a studiare cose molto più complicate del corso delle aste. Quindi se c'è un motivo per cui consigliano la tripla lettura di un libro per poterne apprezzare davvero e poterne trarre il massimo, perché non francamente per me che mi senti una, due o tre volte o non mi senti, a me poco interessa, nel senso spero solo di esserti utile, ma se tu lo fai per tre volte ti sono particolarmente utile, per me è molto meglio. Ora iniziamo e buon divertimento. cosa significa mettere all'asta un immobile? Cosa significa mettere un immobile all'asta? Partiamo davvero dalle basi, perché per molti può non essere questo un dato scontato. Che significa mettere un immobile all'asta? Essenzialmente significa che io devo recuperare da te dei soldi. Ti faccio un esempio classico. Devo recuperare da te dei soldi. Ti ho prestato 50.000 euro. Tu mi avevi giurato che me li avresti restituiti in 5 anni. Non me li restituisci, o incominci, oppure non mi paghi una fattura, oppure una qualsiasi cosa. Io a questo punto devo andare dall'avvocato. L'avvocato mi dice: ok, dobbiamo cercare di ottenere un titolo contro questa persona. È un titolo che ci servirà, cioè una sentenza, un decreto ingiuntivo, quello che vogliamo, che ci servirà per andare dal giudice e liquidare il suo patrimonio. Qua non parliamo di fallimenti, parliamo di esecuzione individuale e quindi noi è il singolo creditore che opera. Quindi tu hai un debito nei miei confronti, non mi vuoi pagare, io vengo da te e vedo che cosa hai, qual è il tuo patrimonio. Hai un immobile, ok, io a questo punto decido che quell'immobile può essere, per quanto molto costosa per me l'esecuzione, cioè tutta l'attività di mettere all'asta l'immobile, in qualche maniera o lo faccio o rinuncio ai soldi, tu magari non hai altro e quindi aggredisco il tuo immobile. Quindi chiedo a un giudice di vendere quell'immobile. Quell'immobile non può essere venduto a chiunque passi in tribunale, deve essere venduto in una pubblica, con una pubblica vendita, che viene regolata nella maggior parte dei casi con un'asta. Ecco che mettere un immobile all'asta significa sostanzialmente eseguire un titolo, è la conseguenza di eseguire un titolo. Io per recuperare un debito, un credito che ho nei tuoi confronti, che risulta da un titolo, da una sentenza, da una qualsiasi cosa, posso chiedere al giudice di mettere in pubblica vendita un immobile, anche più immobili, fin quando il mio debito non sarà integralmente corrisposto. Quindi abbiamo appunto l'esecuzione di un titolo, di un titolo per il recupero di un credito. Aggredisce il patrimonio del debitore, ovviamente. Qua faccio una notazione, l'ho detto già un po' prima. Non solo limitarmi a aggredire un immobile, posso aggredirne anche più immobili, posso aggredire anche l'immobile contemporaneamente il tuo stipendio oppure il tuo conto corrente, dipende molto, devi farlo valutare molto bene dall'avvocato in questa ipotesi, però è possibile. Il tuo patrimonio consiste non solo dei soldi che hai in banca, ma anche del tuo valore economico che è rinchiuso in un immobile, che porterà appunto ad una vendita forzata. Quali tipi di asta esistono? Quali tipi di aste esistono? Quali tipi di aste appunto esistono? Diciamo che, come ti ho detto nella lezione precedente, tu puoi chiedere appunto l'esecuzione. L'esecuzione appunto vuol dire mettere in esecuzione un titolo. L'esecuzione può riguardare beni mobili o beni immobili. Ecco che le pubbliche vendite accadono su beni mobili, e quindi abbiamo le aste esecutive mobiliari, o su beni immobili, e quindi abbiamo le aste esecutive immobiliari o aste immobiliari. Nelle aste mobiliari, cioè nelle prime, puoi avere, diciamo, puoi comprare beni mobili, ad esempio l'ufficiale giudiziario, che è il pubblico ufficiale che può mettere in esecuzione un titolo, va dal debitore e magari questo debitore ha un capannone pieno di ricambi auto, pignora tutti i ricambi presenti in quel momento all'interno del capannone e, dopo averli pignorati, la procedura proseguirà con la messa all'asta di questi beni. Ovviamente ne avrei sentito parlare delle aste immobiliari perché riguarda appunto beni appunto di natura non immobiliare, ecco, quindi non immobili, e può essere incluso al loro interno anche ad esempio l'acquisto di quote sociali di una società oppure l'acquisto di crediti, molto interessante, all'asta, e quindi riguarda, segue appunto una procedura particolare, quella propria delle pubbliche vendite in ambito appunto mobiliare. Abbiamo poi le aste esecutive immobiliari, che sono quelle oggetto del nostro corso, che appunto funzionano quando c'è un singolo creditore che agisce contro magari il classico mutuo della banca non pagato, la banca che agisce contro il soggetto che non ha pagato il mutuo ponendogli l'immobile all'asta. Abbiamo poi altri tipi di aste che sono le aste fallimentari che non saranno oggetto di questo corso, anch'esse molto interessanti perché sono pubbliche vendite create all'interno di una procedura concorsuale, cioè di un fallimento o di un concordato preventivo, eccetera, eccetera. Cioè la mia società fallisce perché è in un grave stato di insolvenza e tutti i beni della società vengono venduti in aste preparate dal curatore fallimentare oppure in alcuni altri casi da un delegato ad hoc. Sta di fatto che le aste fallimentari sono diverse dalle aste immobiliari per alcuni aspetti, ma questo magari lo vedremo in separatamente. Ora concentriamoci sulle aste immobiliari. Cosa posso comprare all'asta? Ora dobbiamo rispondere a una domanda molto importante, e cioè che cosa posso comprare all'asta? Ti prego davvero di fare molta attenzione a questa lezione perché è molto molto importante. Peraltro questa coincide con il primo punto delle verifiche che dovremo fare, ma questo lo vedremo in seguito, cioè su che cosa sto andando a comprare. A questo punto ti faccio una piccola premessa. Sappi che nel mondo delle aste, ma anche della proprietà in generale, tu non compri l'immobile, tu compri un diritto sull'immobile. Questa è una cosa molto importante che però può essere dirimente. Quindi, siccome tu non compri l'immobile, nel senso che tu compri il diritto di proprietà, ad esempio, dell'immobile, ma non compri l'immobile in quanto tale, l'acquisto dell'immobile significa l'acquisto di un diritto. Siccome è l'acquisto di un diritto, devi stare molto molto attento a che cosa ti stanno vendendo, soprattutto nelle aste. Se normalmente questa situazione all'interno di una procedura normale di compravendita di un immobile non è un problema, perché tanto anche se hai delle difficoltà preliminari, qualcuno ti sottace qualcosa a rogito, comunque c'è il notaio che ti tutela. Qua non c'è nessuno che ti tutela, quindi tu devi dare per scontato, si dà per scontato che tu abbia piena consapevolezza di che cosa stai comprando. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso ti capita di comprare la proprietà di un immobile e quindi il diritto di proprietà, di piena proprietà sull'intero immobile, ok? Questa è la situazione più classica, quindi io sto comprando il diritto 1/1, si legge molto spesso, di proprietà dell'intero immobile. Quindi sto comprando il 100% della proprietà di quell'immobile. Su quell'immobile c'è il 100% di proprietà e un unico proprietario, io ne divento, oppure ci sono più proprietari e io ne divento l'unico proprietario, quindi tutto il 100% diventerà mio se mi aggiudico l'immobile. Accanto alla piena proprietà dell'intero ci può essere l'ipotesi, possibile anche se meno frequente, della piena proprietà di una quota. Che significa? La piena proprietà di una quota si ha quando ad esempio tre fratelli hanno uno dei tre ha un debito e il giudice decide che si può vendere la quota di uno dei tre, cioè non si vende tutto l'immobile ma si vende solo un terzo di quell'immobile, quindi io vado all'asta e compro il 33%. Sappi che con le quote si possono fare degli affari incredibili. non ne approfondiremo in questa sede perché sono cose molto avanzate, però sappi che è possibile fare davvero degli affari molto interessanti acquistando quote di immobili. E ci sono qua due parole accanto a proprietà, c'è cioè la parola piena, piena proprietà. Infatti la piena proprietà sta ad indicare che coincide sia la nuda proprietà, e quindi la proprietà del muro, e sia la dei muri, delle mura, e sia la possibilità di poter fruire, quindi trarre un frutto dalla proprietà. E quindi la piena proprietà, nella piena proprietà coincidono nuda proprietà, nudo proprietario e usufruttuario, che sono un unico soggetto. Però è ben possibile che i due soggetti siano separati, quindi che venga venduto all'asta la sola nuda proprietà, e cioè la proprietà, diciamo, della struttura, e non invece la possibilità di fruirne, quindi abitare oppure affittare l'immobile, che invece è l'usufrutto. Nella piena proprietà tu compri tutto, se altrimenti ti trovi a comprare o nuda proprietà o usufrutto. Entrambi questi diritti possono essere venduti, e possono essere venduti ad esempio l'usufrutto di una quota oppure l'usufrutto dell'intero. Devi stare molto attento a leggere qual è l'oggetto della vendita. Quindi usufrutto e nuda proprietà sono due cose separate, entrambi vendibili all'asta. Se compro una nuda proprietà, io so che non entrerò nell'immobile fino a quando l'usufruttuario che sta dentro morirà oppure l'usufrutto scadrà. Abbiamo poi un'altra cosa molto frequente, che invece è il diritto superficiario o superficie. In questo caso è il diritto ad essere proprietari solo di quello che normalmente la piena proprietà coincide con la proprietà dell'intero manufatto, ad esempio una villa, di tutta la villa e del terreno su cui essa è stata edificata. Il diritto di superficie è l'acquisto della proprietà solo sul manufatto e non anche sul terreno, che spesso dovrà essere poi, a parte se lo riteniamo, riscattato ad esempio dal comune o da altri soggetti o dal costruttore, eccetera. In questo caso non abbiamo l'acquisto del terreno, abbiamo l'acquisto solo soltanto del manufatto. Può essere anche di un appartamento sito all'interno di un palazzo di 10 piani, e ci può essere che io vada ad acquistare il 100% di un diritto superficiario del monovano che sta al quarto piano, perché in quel caso il costruttore ha trattenuto, il costruttore, il comune o chiunque per lui ha trattenuto il diritto sul suolo, il diritto di proprietà sul suolo. Aggiungo che il diritto superficiale ovviamente vale meno del diritto, del pieno diritto. Ognuno di questi diritti, piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà o diritto superficiario, può essere acquistato sull'intero o solo su una quota. Quindi davvero devi stare molto attento. Ricordati questa cosa che ti sto dicendo, che ciò che puoi comprare all'asta è solo e soltanto un diritto. Non compri mai un immobile, ovviamente, ma compri qualcosa, e quindi per capire che cosa hai comprato bisogna leggere molto attentamente i documenti dell'asta, che sono l'argomento della prossima sezione. Ovviamente ci sono anche... Come funziona il processo? E allora, come funzionano le aste immobiliari? Vediamo proprio come funziona il processo esecutivo. Quindi io, come dicevamo, ho ottenuto un titolo, ho avuto una sentenza, un decreto ingiuntivo. Tu mi devi dare 50.000 euro oltre interessi se ne soddisfo. Ok, come funziona? A questo punto io, creditore, vado dall'avvocato, l'avvocato mette in esecuzione il pignoramento. Fa una serie di atti che qui non interessano, notifica precetto e il titolo esecutivo, e poi richiede il pignoramento del bene immobile, cioè chiede al giudice di bloccare l'immobile, una specie di sequestro, per capirci, anche se mentre la finalità del sequestro è quella di conservare normalmente un bene, la finalità del pignoramento è quello di venderlo. Però intanto blocca l'immobile, che con la presenza del pignoramento non può essere venduto. Qui non parleremo di stralci, però sappi che comunque è possibile vendere un immobile oggetto di pignoramento, però non con la pendenza del pignoramento. Dopo il pignoramento, io ho fatto questo pignoramento, cioè ho chiesto all'ufficiale giudiziario di notificarti che quell'immobile non puoi più venderlo. Questo pignoramento viene trascritto in conservatoria e dopodiché, entro un termine stabilito dalla legge, io devo fare, io creditore, devo fare un'istanza di vendita, cioè devo chiedere al giudice, atteso che questo immobile è stato pignorato, visto che questo immobile è stato pignorato, ti prego, vendilo. Dopo l'istanza di vendita, il giudice nomina un perito. Questo è il primo soggetto interessante che ci troveremo di fronte, dopo ne capiremo i contorni, che fa una consulenza tecnica, cioè mi fa capire quanto vale l'immobile. Il giudice, io posso dirgli che possa valere 100 come 100.000 come 1, il giudice non può fidarsi di quello che dice il creditore, né tantomeno può fidarsi di quello che gli dice il debitore. Quindi la legge già risolve il problema e dice: ok, se tu vuoi vendere l'immobile ci vuole un soggetto, un perito, che ci dica innanzitutto, e vedremo ora nei dettagli di che cosa stiamo parlando, innanzitutto come è fatto l'immobile, se ha delle problematiche, eccetera, eccetera, e soprattutto ci dica il valore, perché il valore di perizia normalmente è il primo valore di vendita, ma su questo avremo modo di approfondirlo dettagliatamente. Dopo che abbiamo il valore della vendita, il giudice a questo punto deve ordinare la vendita. Quindi con un'ordinanza di vendita, si tiene un'udienza, con un'ordinanza in cui alla fine normalmente il giudice emette un'ordinanza di vendita e normalmente in questa sede delega le operazioni della vendita, cioè dice: ok, tu hai fatto questo pignoramento, l'istanza di vendita è stata fatta, la perizia pure, sappiamo quanto vale, ora vendiamolo. Per venderlo se ne occuperà l'avvocato tal dei tali, il commercialista tal dei tali, il notaio tal dei tali. Questo soggetto che viene nominato dal giudice si chiama delegato alla vendita ed è il soggetto che provvederà a tutte quelle operazioni, dalla pubblicazione dell'annuncio, dalla pubblicazione dell'avviso di vendita, raccoglierà le offerte, procederà alla gara d'asta, provvederà all'aggiudicazione e preparerà il decreto di trasferimento, si occuperà di raccogliere i soldi, insomma si occuperà di tutta quella parte che porta fino al passaggio, anzi oltre, normalmente poi cambia da tribunale a tribunale, si occupa fino al piano di riparto, alla proposta del piano di riparto delle somme incassate. Un'altra figura collegata al delegato è quella del custode, ma la vedremo a brevissimo. Dopodiché abbiamo i tentativi di vendita fino al decreto di trasferimento. Successivamente avremo il piano di riparto, cioè abbiamo incassato 100.000, di questi 15 magari va pagato il delegato, va pagato il consulente, va pagato l'avvocato del creditore, il resto 85 vengono date al creditore o ai creditori che sono intervenuti, secondo un ordine di privilegio stabilito dalla legge, quindi vengono fatti i mandati di pagamento, ciascuno viene pagato dal tribunale. Se residuano dei soldi, questi soldi finiscono in capo al debitore. Sono intervenuti, secondo un ordine di privilegio stabilito dalla legge, quindi vengono fatti i mandati di pagamento, ciascuno viene pagato dal tribunale. Se residuano dei soldi, questi soldi finiscono in capo al debitore. Quale tipo di aste esistono? Bene, in questo video invece affronteremo quelle che sono le modalità della vendita. Modalità della vendita che sono state profondamente modificate in seguito all'introduzione delle aste telematiche e quelle che volgarmente vengono chiamate aste telematiche sono le modalità telematiche di vendita e di espletamento della gara d'asta. Possiamo entrare subito nel vivo dell'argomento e vedere quali sono le modalità principali, fermo restando che poi avremo degli approfondimenti doc su come presentare le singole offerte a seconda della modalità di vendita. Una premessa in indispensabile è il fatto che in realtà questa questione della delle varie modalità ci serve da un punto di vista didattico, cioè per non cadere dal pero quando leggiamo modalità di cui non abbiamo sentito ancora parlare, tipo asincrona, asincrona telematica, asincrona mista, eccetera. Però in realtà è un problema relativo, perché in avviso di vendita nella precedente ordinanza di vendita avremo già individuato in maniera chiara quelle che sono le modalità con cui si verificherà la vendita. Normalmente gli avvisi sono molto dettagliati, però è opportuno che tu sappia quali sono le possibilità da mettersi in atto. Peraltro avremo una premessa finale, ti consiglio di guardarlo fino in fondo questo video, perché alla fine ti spiegherò qual è l'elemento a cui bisogna tenere presente, che bisogna tenere presente per la verifica della regolarità della modalità di vendita scelta dal delegato. Comunque, premessa, l'abbiamo appunto... guarda sempre l'avviso di vendita, l'ordinanza di vendita, chiaramente, sono appunto molto chiari. Abbiamo diverse modalità. Abbiamo la modalità, diciamo, precedente, classica, che è quella che abbiamo avuto sino ad aprile dell'anno scorso, che è quella appunto la chiamiamo classica cartacea. La classica cartacea che è sostanzialmente, ora la vedremo in un video ad hoc come si estrinse, come si fa qui l'offerta nel caso in cui sia classica, però intanto possiamo vedere che sostanzialmente si caratterizzava con un'offerta che è un documento sottoscritto da noi con marca da bollo da 16, che veniva presentata in busta chiusa con all'interno l'assegno circolare per il deposito. Veniva presentata entro il termine stabilito dall'avviso di vendita, normalmente presso l'ufficio del professionista delegato o in altri luoghi indicati dall'avviso di vendita. Successivamente avevamo l'apertura delle buste al momento dell'inizio delle operazioni di vendita, quindi normalmente presenti tutti gli offerenti e il delegato apriva tutte le buste e verificava con la verifica delle offerte pervenute. E nel caso di più offerte valide, il delegato provvede all'apertura della gara con aggiudicazione al maggior offerente. Con aggiudicazione appunto al maggior offerente. In questa maniera noi... con l'aggiudicazione al maggior offerente. In questo caso sappiamo che i rilanci venivano effettuati a distanza di 1, 2, 3 minuti a seconda di quello che era stabilito nell'avviso di vendita, e cosa interessante è che comunque la gara, a meno che non ci fossero particolarità o difficoltà, si chiudeva nel giro di qualche minuto. Effettuati tutti i rilanci quasi contestuali nel giro di un'oretta massima, nel caso di molto affollamento si chiude la procedura cartacea classica. Abbiamo poi la seconda situazione, che invece abbiamo appunto il secondo gruppo di... da questo momento abbiamo le tre modalità di vendita telematica. Iniziamo dalla prima, che è la sincrona telematica. La sincrona telematica è sostanzialmente non molto dissimile dalla prima, dalla classica cartacea. Perché? Perché in realtà ha la stessa finalità, la stessa struttura, con l'apertura della gara, quindi abbiamo l'offerta, l'apertura delle offerte, la verifica, l'apertura della gara con aggiudicazione al maggior offerente e con i rilanci, diciamo, contestuali alla gara, all'inizio della gara. È praticamente identica alla sincrona telematica, l'unica differenza sta nel fatto che l'offerta deve essere presentata telematicamente. Come si fa, come non si fa, lo vedremo in un idoneo video ad hoc in cui vedremo passo passo come presentare un'offerta. Ciò che è importante è che la differenza principale con la classica cartacea è che tutto viene presentato telematicamente. Viene presentato telematicamente, non si fa un bonifico, non un assegno circolare, viene 30 minuti prima 30 minuti prima dell'esperimento, ad esempio, immaginiamo che sia stabilito per il 19 gennaio alle 16.30, diciamo intorno alle 16, riceveremo le credenziali di accesso all'asta medesima, ci potremo collegare, sarà collegato anche il delegato, che provvederà alla verifica della validità delle offerte presentate, che abbiano tutti i requisiti previsti dalla legge, che il bonifico e l'imposta di bollo siano stati pagati effettivamente, e a quel punto dà apertura si apre la gara d'asta al maggior offerente. Al maggior offerente, in maniera del tutto anonima, anche se sull'effettivo anonimato all'interno di una procedura telematica avrei molto da ridire, però non è questo l'argomento di questo video, di questo corso. I rilanci sono contestuali, quindi rilanci contestuali vuol dire che vengono fatti immediatamente con la contestuale presenza del delegato. Quindi in questo caso poi l'offerta e la gara sono solo telematiche. Vediamo la terza possibilità, che invece è la sincrona mista. Sincrona mista, in cui l'offerta può essere presentata telematicamente, ma può essere anche presentata con modalità cartacea classica. Abbiamo una particolarità di questa modalità, e cioè la sincrona mista ti consente di presentare l'offerta o telematicamente oppure in maniera cartacea, ma se l'hai presentata telematicamente devi partecipare alla gara telematicamente. Se l'hai presentata in maniera cartacea devi essere presente al momento della gara d'asta dal vivo di fronte al delegato. Quindi se offerta telematica, partecipi telematicamente, altrimenti partecipi dal vivo. Lo mettiamo così. Se cartacea, dal vivo. Benissimo, quindi abbiamo le due sincrone, sono queste, quindi sincrona telematica, sincrona mista, e poi abbiamo la asincrona. Ora posso dedicare un attimo, un paio di minuti, alla differenza tra sincrona e asincrona, cioè perché sono stati inseriti questi termini. Asincrona vuol dire sostanzialmente contestuale, o mentre asincrona vuol dire non contestuale. A cosa si fa riferimento? Si fa riferimento alla nel caso appunto di asincrona, abbiamo appunto che non è necessario il collegamento contestuale tra il delegato e gli offerenti. Non necessaria contestuale presenza del delegato e degli offerenti. La gara si svolge su più giorni, si può svolgere su più giorni e con le regole che verranno individuate prima nell'ordinanza di vendita e poi nella vendita vera e propria. Si chiuderà in una data precisa. Peraltro ti segnalo che, se non l'hai già visto, ci sarà un video dedicato agli avvisi di vendita, in cui abbiamo esaminato e verificato proprio un'ipotesi di un avviso di vendita con modalità asincrona. Cosa spinge il giudice a decidere per l'una o per l'altra? Possono essere varie ragioni. Ora intanto metto qui telematica. Possono essere varie ragioni. Sincrona telematica, si pensa che i giudici la utilizzeranno quando si tratta di immobili strumentali, cioè immobili di natura commerciale, in cui verosimilmente parteciperanno imprese, eccetera. Sincrona mista, quando potrebbe essere quello che riguarda più, interessa più da vicino noi, perché potrebbe essere utilizzata nell'ipotesi di partecipazione all'acquisto di immobili, ad esempio residenziali, in cui possono partecipare anche privati, cioè gente che non ha tutta questa capacità organizzativa tale da permettersi una offerta telematica. E poi avremo la asincrona nelle altre ipotesi in cui lo riterrà. Comunque non c'è nessun obbligo a utilizzare una invece che l'altra. Quello che sappiamo è che il giudice e il tribunale dovrà decidere, e poi il delegato dovrà eseguire quale modalità scegliere. Allora, vediamo subito che, fermo restando quello che vi ho detto, cioè che la premessa è di guardare sempre l'avviso dell'ordinanza di vendita, abbiamo che c'è stato un momento, questo è molto importante, cioè lo dovete necessariamente sapere, c'è stato un momento, in particolare l'11 aprile, ricordatevi questa data, l'11 aprile del 2018 è entrata in vigore la modalità telematica. Che vuol dire che è entrata in vigore la modalità telematica? Abbiamo visto che la modalità telematica ha tre modalità, quindi sincrona, telematica, sincrona mista e asincrona. Che significa che è entrata in vigore? Significa questo, che tutte, ecco perché è importante sapere cos'è l'ordinanza di vendita, tutte le ordinanze di vendita successive all'11/4/2018 devono prevedere modalità di vendita telematica. Cioè devono scegliere tra una, tra la 2, 3 e la 4. Quindi se ancora non abbiamo messo ancora i colori, magari mettiamolo così. Quindi dovranno necessariamente essere... Vedete se li mettiamo tutti in verde, in modo che... Sul verdino. Tutte le ordinanze devono prevedere modalità di vendita telematica. Modalità di vendita telematica, escludendo la cartacea. Però attenzione, perché io qua l'ho scritto in maniera molto chiara, ordinanze di vendita. Quindi quell'ordinanza che abbiamo visto il giudice emette alla fine dell'udienza di vendita. Per tutte invece le aste, per tutte le procedure in cui l'ordinanza di vendita è stata emessa prima dell'11/4/2018, avremo la classica cartacea. Quindi questo è un dato importante, l'11/4 è uno spartiacque, ma ai fini dell'ordinanza di vendita. Quindi è l'ordinanza di vendita che cambia, ovviamente il delegato non può modificare un'ordinanza di vendita stabilita dal giudice, e quindi non è che può succedere che un'ordinanza di vendita di gennaio 2018, in cui è prevista la cartacea classica, poi il delegato autonomamente decida dopo l'11 aprile di fare una sincrona mista, per esempio. No. È l'ordinanza di vendita che comanda. Questo è importante perché può essere ragione di annullamento della gara d'asta, della gara e comunque generale del tentativo di vendita, se l'avviso di vendita non è conforme all'ordinanza e se assolta l'ordinanza non è conforme alla legge. Nei prossimi video vedremo come si presentano le varie offerte, comunque sta di fatto che le varie offerte, come si sviluppano le varie modalità. Intanto spero che ti sia utile. I soggetti dell'asta. Ok, vediamo chi sono i soggetti di cui sentirai parlare o leggerai nei documenti dell'asta, in modo che tu sappia riconoscere e distinguere chiaramente le loro funzioni, perché sono molto distinte e chiare. Abbiamo già incominciato ad accennare ad alcuni di essi, ma ripetite iuvant. Abbiamo il debitore, o anche detto esecutato. È il soggetto che sta subendo l'esecuzione, e quindi è il proprietario dell'immobile venduto. Potrebbe anche non essere il proprietario nel caso di intestazione di ipoteca, ma insomma questo a te interessa relativamente. Comunque è il soggetto normalmente che avrà una perdita patrimoniale a favore del creditore, con l'aiuto del giudice che venderà l'immobile con pubblica vendita. Abbiamo poi appunto il creditore procedente, che normalmente è la banca, può essere il condominio, può essere un altro soggetto, che ha acquisito il titolo. Normalmente il titolo è il contratto di mutuo che non è stato pagato. Con quel mutuo la banca può direttamente iniziare l'esecuzione. Il creditore procedente è appunto il soggetto che mette i soldi, è quello che mette la benzina perché la macchina dell'esecuzione possa camminare, ed è quindi il soggetto che ha più interesse alla rapida vendita dell'immobile. Andiamo avanti, abbiamo il giudice dell'esecuzione, OGE, questo lo troverai spessissimo, che è appunto il dominus, il capo, il padrone della procedura. Tutte le istanze andranno fatte a lui, se ci sono controversie col delegato, col custode, eccetera, è sempre il giudice che decide, e quindi è il soggetto che delega la vendita e le operazioni di vendita, e quindi è il soggetto che ha il potere anche di toglierle, di occupare. Ci sono rarissimi, devo dire, ora come ora, io francamente non ne vedo da un bel po', esecuzioni gestite direttamente dal giudice. Abbiamo poi il delegato alla vendita, e ci ho spiegato già che cos'è, chi è nella precedente lezione. Sappiamo che il delegato alla vendita normalmente è anche custode. Non è necessario, non è obbligatorio che entrambi coincidano. Ci sono tribunali, pensiamo a Milano o a Monza, dove il custode in realtà è un organismo come SIVAG oppure come IVG, eccetera eccetera, e il delegato alla vendita invece è un avvocato o un commercialista. Il custode è il soggetto che deve appunto custodire l'immobile, può essere anche il debitore. Peraltro la normativa su questo è cambiata in maniera favorevole al debitore anche abbastanza recentemente, quindi può essere anche il soggetto. È al custode che tu ti dovrai rivolgere quando dovrai andare a vedere l'immobile, perché lui, che in teoria ha lui è quello che dovrebbe avere le chiavi dell'immobile, e quindi con lui dovresti coordinarti per organizzare una visita dell'immobile per vederlo. Spesso capita che il delegato e il custode siano la stessa persona, però non confondere le funzioni. La funzione di delega alla vendita è una cosa, cioè la raccolta delle offerte, l'avviso della pubblicazione, l'avviso di vendita. L'ufficio di custodia è un'altra cosa, un altro tipo di attività che viene svolta e può essere anche svolta da soggetto diverso. Poi abbiamo il perito, e il perito abbiamo già detto che può essere un soggetto appunto interessante nell'ambito la procedura esecutiva, perché è colui che poi è andato a studiarsi l'immobile. A volte capita che clienti chiamino il perito di un immobile quando vogliono dei chiarimenti. Se è una persona disponibile, normalmente risponde. Normalmente appunto risponde. Il soggetto del perito è molto importante, la perizia è molto importante, vedremo quali sono le sue eventuali responsabilità nel caso in cui sbagli qualcosa, però sappi già che è un soggetto molto cruciale all'interno del mondo esecutivo. Abbiamo visto i soggetti dell'asta, andiamo oltre. I documenti dell'asta. Vediamo ora i documenti dell'asta. Questa parte l'ho messa prima di come si trova l'immobile. Perché? Perché è molto importante capire quali sono i documenti che sono contenuti all'interno poi dell'annuncio di vendita, in modo che poi avremo molta facilità dopo che avremo trovato gli annunci. Io ti indicherò: qua c'è la perizia, qua c'è questo, qua c'è l'ordinanza, eccetera, tu saprai esattamente a cosa mi riferisco. I documenti dell'asta, i principali documenti sono questi, sono la perizia, e normalmente collegata alla perizia troveremo poi, vedrai negli annunci, normalmente ci sono anche allegati quali planimetria o fotoriproduzione dell'immobile. Ed è appunto la perizia, come vedremo, il documento creato dal perito. Troveremo normalmente nell'asta l'ordinanza di vendita, scopriremo che cos'è, in che perché è importante che ci sia l'ordinanza di vendita. Nell'asta ci sono anche però tribunali che per prassi, come Monza, non inseriscono l'ordinanza di vendita nei documenti degli annunci. E poi avremo l'avviso di vendita, che è un po' il dominus, il punto di riferimento, la stella polare dell'avviso dell'asta, che è il terzo documento che normalmente ritroviamo, che dobbiamo questo sì trovare in ogni annuncio insieme alla perizia, che è appunto l'atto creato, il documento creato dal delegato alla vendita, in cui vengono indicate tutte le caratteristiche di come verrà svolta l'asta, come si dovrà fare l'offerta, eccetera eccetera, ma questo lo vedremo con dettaglio proprio ora. Iniziamo dalla perizia. La perizia. Benissimo, ora appunto incominciamo a vedere la perizia. In questa lezione approfondiremo, insomma, in maniera abbastanza abbastanza dettagliata la perizia, che uno dei documenti pubblici, quindi che verranno resi pubblici nell'annuncio che troverai, ma questo lo vedremo dopo, normalmente con i dati sensibili del debitore oscurati. La perizia ti permette di dare uno sguardo d'insieme sullo stato dell'immobile, quindi possiamo dire che ti serve sia a capire in che cosa consiste l'immobile, cioè viene indicato che cosa è oggetto di asta, quindi che cosa è all'asta, ricordati la lezione che abbiamo fatto sul punto, cioè che diritto viene venduto, in che percentuale viene scritto, ora vedremo, ne vedremo una passo passo, in modo che ne capisci appunto i contorni, e ne poi descritto insomma le qualità dell'immobile, e quindi se ha degli abusi edilizi, se sì, se sono sanabili o non sanabili, eccetera. Possiamo anche aggiungere che la perizia aggiunge anche tutte quelle informazioni che vengono individuate per capire se il proprietario, quindi il soggetto che sta vendendo l'immobile, diciamo costretto dal giudice, quindi il debitore, sia effettivamente ad esempio il proprietario, e da che cosa derivi questo titolo di proprietà. La perizia ti indica se l'immobile è vuoto, insomma ti dà uno sguardo di insieme sull'immobile che ti permette appunto di avere una idea chiara di che tipo, se l'immobile ha delle problematiche che per te possono essere dirimenti per non partecipare all'asta. Ma vediamo proprio quali sono le parti della perizia, cosa include all'interno della perizia. Normalmente, ecco, ci sono, la maggior parte di queste parti le troverai in tutte le perizie. Ci sono alcuni periti o alcuni tribunali che fanno dei quesiti leggermente diversi. Ricordate che in Italia non esiste una unità a questo proposito. Infatti troverai avvisi di vendita, perizie o ordinanze di vendita fatte in maniera diversificata, perché ogni tribunale ha le proprie prassi. Ma iniziamo subito. Vediamo, normalmente la perizia contiene l'individuazione e la descrizione dell'immobile, quindi vedremo in che cosa consiste esattamente, concretamente. Quindi ti individua e ti descrive chiaramente l'immobile, come è fatto, il suo stato, ovviamente il suo stato al momento in cui viene fatta la perizia. Faccio un esempio che è capitato recentemente a un mio cliente. L'immobile sembrava interessante, le foto legate alla perizia che erano anche nell'annuncio portavano un determinato tipo di immobile fatto in una determinata maniera, poi lui ha fatto la visita con il custode, in realtà l'immobile era stato sostanzialmente demolito dall'esecutato, che prima di lasciarlo aveva col martello pneumatico rotto tutto il pavimento, rotto tutto quanto, insomma. Quindi anche le foto sono molto indicative, ed è questa una delle ragioni per cui chi è all'inizio difficilmente procede all'acquisto di un immobile all'asta senza andarla a vedere. Ti dico chi è all'inizio perché normalmente poi quando diventi più esperto dai già per scontato nel conto economico che l'immobile si trova in condizioni pessime, quindi sai già regolarti, quindi puoi anche decidere di non andare a vederlo, però chiaramente se hai la possibilità è sempre meglio vedere l'immobile piuttosto che non vederlo. Abbiamo poi la verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, con costi per l'eventuale sanatoria. Questa è un'altra parte, appunto quella che ti anticipavo all'inizio di questa lezione. Quindi attenzione, questa verifica è la lettura edilizia urbanistica che il perito fa delle carte, ma non bisogna vedere se è la lettura corretta. Questa è una tematica che ti ripeterò più volte, non solo per la perizia ma anche per l'avviso di vendita. E cioè quello che viene dichiarato dal perito, quello che viene dichiarato dal delegato alla vendita, non necessariamente corrisponde alla verità giuridica o edilizia urbanistica dell'immobile, perché normalmente è una loro interpretazione, il più delle volte corretta ovviamente, però non è detto che sia sempre corretta. Ti faccio a questo proposito un altro esempio. Un mio cliente mi contatta perché dovevamo preparare un S, eccetera, e mi dice: sai che ho trovato una particolarità su un altro immobile, mi parla di un altro immobile per cui lui poi non ha deciso di non partecipare. In pratica erano dei posti auto, dei box auto all'interno di un immobile, di un palazzo, dei box auto in cui e la perizia le portava la loro regolarità, a dire del perito, che erano stati regolarmente condonati, e qua parlavamo di... erano stati regolarmente condonati dall'esecutato, e quindi erano regolari. Solo che il mio cliente, che è un tipo molto esperto, assolutamente non una persona, diciamo così, alle prime armi, ha verificato questa circostanza in comune ed ha verificato che in realtà quell'immobile, pur dichiarato regolare dal perito, in realtà mancava della concessione edilizia conseguente al condono. Quindi non c'era stata nessuna concessione edilizia. Quell'immobile, quel box, non era in realtà un box che veniva venduto, ma veniva venduto sensibili del debitore oscuro. Dell'immobile, peraltro parliamo di un box trascrizione e iscrizioni pregiudizievoli, opponibile alla procedura, non opponibile alla procedura, o meglio, strettamente collegate alla procedura. Quindi se c'è un'ipoteca della banca, poi un'ipoteca del condominio, poi un'ipoteca di Agenzia delle Entrate e Riscossione, cioè di Equitalia, e poi un pignoramento della banca, con la vendita dell'immobile si cancellano tutte e quattro queste pregiudizievoli. Venendo cancellate, ovviamente a spese della procedura o a spese parzialmente a carico dell'acquirente, questo c'è scritto di volta in volta nei vari avvisi di vendita. Ciò che è importante è che in questa fase, in questa parte, ti indica anche la presenza di diritti opponibili di terzi, ma su questo faremo una lezione ad hoc, in modo che tu abbia un'idea chiara che significa avere cosa siano i diritti opponibili appunto di terzi. Ti dice poi se l'immobile è libero e occupato, e quindi se in quel momento l'immobile viene venduto, quindi verrà venduto con senza nessuno dentro, oppure occupato. L'occupazione può essere con titolo o senza titolo, con titolo opponibile o con titolo non opponibile. Per comodità, quando io ti uso il termine opponibile, usa un sinonimo, diciamo così, intendo che vale nei tuoi confronti. Cioè, che non è proprio corretta come traduzione, però riesce molto a esserti chiara, è il diritto che può essere fatto valere nei tuoi confronti. Quindi è immobile libero o occupato se io ho un contratto di locazione che ha determinate caratteristiche, quel contratto di locazione vale anche nei tuoi confronti che hai comprato l'immobile. Se non ha determinate caratteristiche, non è opponibile, quindi io è occupato senza un valido titolo opponibile. Ti rimando anche qui a una lezione che ti dicevo sopra, però sappi che la dichiarazione di opponibilità o non opponibilità fatta in perizia o in avviso di vendita non vale niente, perché come nella perizia, come nell'ipotesi che ti dicevo prima del mio cliente che riguardo il condono, se ti rendi conto che quel diritto non è opponibile, anche se il delegato ha dichiarato che è opponibile, il delegato non è il giudice, quindi puoi eccepirlo. Ti faccio anche qui un esempio: in questo momento in cui sto registrando ci sono sul Tribunale di Bari 5 immobili all'asta che sono occupati con contratto di locazione, con regolare contratto di locazione. Per tutti e 5 c'è scritto che l'immobile e il diritto è opponibile al terzo, nessuno dei 5 è opponibile effettivamente al terzo, perché il rapporto tra locazione e asta è molto particolare, l'immobile pignorato è molto particolare, e devo dire che non c'è molta preparazione, anche da parte di magari delegati non esperti, sulla vicenda. Puoi procedere, quindi molte volte vengono fatti contratti solamente per dare fastidio al terzo acquirente, quindi a noi che vogliamo partecipare all'asta, ma questo è un altro discorso. Un'altra cosa importante, appunto, collegata alla prima e alla quarta, abbiamo come la verifica della continuità delle trascrizioni del titolo di proprietà. Allora, ne abbiamo già parlato in un'altra lezione, ciò che passa è sempre il diritto, quindi io acquisto ad esempio il diritto di proprietà, ok? Nel momento in cui io acquisto il diritto di proprietà, lo acquisto da Tizio, che è il creditore, che è il debitore, attraverso il tribunale. Quindi io acquisto quel diritto di proprietà solo se quel diritto di proprietà è regolare. Se il suo diritto di proprietà non è regolare, io non sto conquistando niente, di fatto. Ecco perché va verificata la continuità delle trascrizioni, quindi che Tizio abbia comprato a sua volta da Caio in maniera regolare, che a sua volta abbia comprato dal costruttore, che magari a sua volta ha comprato regolarmente il terreno da un altro soggetto. Quindi è necessario che ci sia una continuità delle trascrizioni e del titolo di proprietà. In tutti questi casi è comunque molto molto importante verificare la correttezza. Ti aggiungo una piccola chicca, di cui non so se sia conoscenza o meno, e cioè è tanto vera questa cosa che nell'ipotesi in cui ci sia maturato un uso capione a favore di un altro soggetto, prima o dopo l'asta è indifferente, la mia aggiudicazione all'asta viene sostanzialmente a non avere nessun effetto. Mi spiego. Caio, Tizio è il proprietario, lui ha comprato da Caio. Nella realtà però un altro soggetto, Sempronio, per più di 20 anni è rimasto dentro l'immobile. Poi è iniziata una causa contro Tizio prima della messa all'asta, dicendo che lui è il vero proprietario dell'immobile perché l'ha mantenuto per più di 20 anni come se fosse patrona. Quando il giudice gli darà ragione, vuol dire che non c'è più quella continuità, quella regolarità e continuità dei passaggi di proprietà, quindi dal proprietario del terreno al costruttore, dal costruttore da Caio a Tizio. Ma tra Caio e Tizio c'è la nuova proprietà di Sempronio, che viene dichiarata dal giudice con una sentenza, e a quel punto tra Caio e Tizio, cioè tra Caio e te che stai comprando all'asta, si frappone la proprietà di Sempronio, e non essendoci la proprietà di Sempronio. La proprietà di Sempronio è un tipo di acquisto, ora vabbè non voglio entrare troppo nel merito perché diventa troppo complicato, a titolo originario, quindi lui non ha ottenuto la proprietà da Sempronio, da Caio, ma l'ha ottenuta semplicemente per un motivo di legge, per l'uso capione. Quindi tu non puoi più comprare quel diritto di proprietà, perché quel diritto di proprietà non è di Caio, non era di Caio all'epoca, ma era già di Sempronio. E successivamente, quindi, tu non puoi comprare da un soggetto che non sia il proprietario. Verificato ciò dal giudice, è chiaro che la tua aggiudicazione all'asta perde qualsiasi valore, tu non hai nessun titolo sull'immobile. Cioè, stare molto attenti sulle aste, perché davvero ci sono tante piccole cose che possono fare la differenza. Alla fine della perizia, il perito indica quelli che sono i criteri di stima adottati, e quindi procede alla valutazione. E quindi dice, ad esempio, fa riferimento all'OMI o fa riferimento ad altri criteri che per lui sono valide in quel luogo, fa normalmente, quindi individuo ad esempio 1.500 euro al metro, per 100 metri sono 150.000 euro, normalmente fa una detrazione, una riduzione dell'importo da 150.000 euro, ad esempio, siccome se l'immobile è libero stabilisce che vale 150.000 euro, se occupato vale 135.000 euro. Se occupato con titolo opponibile, ad esempio con locazione, moltissimi giudici, moltissimi periti svolgono la loro valutazione non sul valore di mercato, quindi se l'immobile viene venduto in quel momento sul mercato, ma sulla redditività dell'affitto. Ed è questa una delle problematiche principali. Che significa? Significa che se io ho un immobile che vale 150.000 euro, però l'ho affittato con un contratto a 400 euro al mese, il perito valuterà i 400 euro al mese per 12 mesi, quindi 400 per 12 sono 4.800, e su 4.800 stabilirà che è un rendimento buono il 3%, il 4%, il 5% rispetto al capitale investito, quindi la sua valutazione non sarà più 150.000 euro, ad esempio, ma sarà molto inferiore. Però, diciamo, in questa sede a te non interessa molto questo sistema, ti interessa il momento in cui vai a valutare l'immobile, quindi devi leggere sempre i criteri di valutazione. Infatti nei criteri di valutazione, oltre alla ripartizione tra libero e occupato, troveremo, ora lo vedremo, anche altre situazioni in cui il perito devaluta l'immobile, ad esempio di un ulteriore 15%, come ormai succede molto spesso, per nell'ipotesi di vizi o di diritti che non... stati valutati dalla perizia dell'avviso di vendita. Servono tutte queste avvertenze a limitare il più possibile la responsabilità dei soggetti coinvolti, quindi del perito, del giudice, del delegato alla vendita, e quindi devi essere molto attento a leggere con attenzione i criteri di stima adottati, perché attraverso di essi puoi avere una traccia di quale possa essere il valore di mercato dell'immobile. Però ad esempio nell'ipotesi che ti dicevo prima di valutazione non sulla compravendita ma sul rendimento di quell'immobile, è chiaro che parliamo di due situazioni completamente diverse. Ora ti ho fatto una panoramica generale, ora affrontiamo nello specifico una perizia.